Neigermant, che è il terzo volume della Recherche de Temps Perdu, Marcel Proust racconta di una propria permanenza nell'immaginaria d'Ancière presso l'Hôtel de Flandre. Come spesso gli capita, si sofferma sulle prime fasi del suo risveglio e annota che il suo gabinetto di toeletta era parato di una carta color rosso vivo disseminata di certi fiori neri e bianchi, un insieme di colori che invece di dargli fastidio gli diedero il piacere della novità, obbligandolo ad entrare non in conflitto ma in contatto con loro, a modificare l'allegria e il canticchiare della sua toeletta, emettendogli quasi a forza nel cuore una specie di papavero attraverso cui guardare il mondo. Questo suo ricorso alla metafora del papavero non può passare inosservato all'occhio del lettore, perché queste sue annotazioni sul risveglio seguono da presso altre considerazioni sul sonno, sulle svariate qualità e sulle diverse droghe che possono indurlo. Poche pagine prima di parlare di un papavero metaforico, dunque, Proust parlava della datura, che è un'erbacea che contiene alcaloidi, della cannabis indica, dei molteplici derivati dell'etere, della belladonna, dell'oppio e della valeriana, sostanze niente affatto metaforiche che, per una via o per l'altra, propiziavano quel sonno di piombo in cui, dice Proust, non si è più nessuno. Non si è più nessuno prima di rimettersi a cercare il proprio pensiero e la propria personalità, come si cerca un oggetto smarrito. Qualche anno prima, nel 1890, Lev Tolstoi scrisse un saggio intitolato «Perché la gente si droga», dove sosteneva che non è nel gusto, non è nel piacere, non è nello svago, né nell'allegria che risiede la causa dell'universale diffusione dell'hashish, dell'oppio, del vino, del tabacco, ma solamente nel bisogno di nascondere a se stessi le indicazioni dateci dalla coscienza. La teoria, allorquando si trattava di spiegare il fenomeno, pencolava tra l'edonismo malaticcio di un Proust e il moralismo radicale di Tolstoi, senza peraltro riuscire ad evitare le dolorose vicende che anni dopo ne sarebbero seguite. I mandrilli godono notoriamente di buona stampa. Trattasi di scimmie catarrine cinocefale che tirano a campare come possono nelle boscaglie dell'Africa occidentale. Sono alte più o meno come San Paolo, ovvero circa un metro e mezzo, e si distinguono facilmente per la simmetrica distribuzione dei colori. Il rosso, il rosa e il blu nel viso e nei genitali. Allorché un mandrillo deve combattere per questioni di potere o di femmine, più o meno dice all'avversario qualcosa come «ci vediamo qui fra un paio d'ore» e si allontana. Va frettolosamente in cerca di una pianticella di iboga, la sradica dal terreno e ne mangia la radice, poi aspetta l'effetto che fa, e quindi si decide a tornare dall'avversario fiducioso di suonarlo come un tamburo. Già dal secolo scorso ci giungono notizie circa la passione di mucche, cavalli, muli, pecore, antilopi, maiali, conigli, galline, capre, eccetera, per varie erbe definite pazze per gli effetti che provocano. Gli elefanti si ubriacano con frutti fermentati e c'è perfino il caso, come nel 1985 in Bengala, che si uniscano in branco per invadere distillerie clandestine di alcol. Dumbo, l'elefantino volante disneyano, più che un edificante modello pedagogico, era un ciucchettone irredimibile già in tenera età. I gatti si inebriano con la nepeta o nepeta, ma... e con la valeriana. i gatti giapponesi con la matatabi e si rincitrulliscono fino a rimanere secchi, sdraiati sulla schiena con le zampe all'insù. Le renne con i funghi e perfino i poeticissimi petti rossi, ma vacci a pensare, con le bacche di Natale. A quanto racconta l'etnobotanico Giorgio Samorini nel suo accurato libretto che si intitola Animali che si drogano, una modificazione del proprio stato di coscienza, non se la nega nessuno, neppure i topi, le manguste, le farfalle o le mosche, anche se il prezzo da pagare poi, una volta inebetito e ghiotto boccone inerme per i predatori, questo prezzo è alto come la vita stessa. Samorini dice dunque che storie animali alla mano, Tolstoi ha torto. Ma qualcosa delle sue argomentazioni alternative gli si può ritorcere contro. Ricerca di conoscenza e ricerca di piacere sarebbero motivazioni basilari dell'uso universale delle droghe fra gli uomini. E non sarebbero da trascurare quelle ipotesi aggiuntive che considerano l'uso delle droghe una forma di automedicazione o la risposta adattiva nei confronti dell'ambiente circostante. Da questo punto di vista l'enfasi consolatoria diventa tale che per qualche aspirante neometafisico la ricerca dell'ebbrezza sarebbe perfino una forza motivazionale primaria, come la volontà per Schopenhauer o la vis vitalis o l'entelechia per Driesch. Se è vero che da queste consapevolezze si può guardare al nostro problema, che problema ben inteso rimane, se è vero che lo si può guardare con un approccio scientificamente più corretto di quello consueto, tuttavia è bene ricordare che l'asserto secondo il quale mal comune sarebbe mezzo gaudio è stato inventato da chi il male non l'aveva. La carta da parati di Proust, il papavero metaforico, può essere inclusa nella categoria delle droghe secondo il principio che in una categoria mentale ci sta dentro di tutto. Non c'è fisicità che l'esaurisca. Anche Virginia Oldoini, la contessa di Castiglione, nel fiore dei suoi 18 anni, fresca sposa, poteva gioire, come racconta Petacco nell'Amante dell'Imperatore, poteva gioire di una frequentatissima camera da letto, peraltro tutta in rosso vivo. Ma una volta in disgrazia, meno amata e meno utile agli intrighi dei potenti, aveva avuto la prudenza di trasformare il proprio appartamento a Parigi, in Place Vendôme, in un fortino inaccessibile, nonché aveva avuto la temperanza di vivere in stanze tappezzate di velluto nero, a dimostrazione ulteriore che non per tutti ci sono le mezze misure. C'è anche chi ha a disposizione due soli stati di coscienza, come alla roulette, o il rosso o il nero.